America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Beh, a New York le Nazioni Unite hanno pubblicato un rapporto sui cambiamenti climatici, un rapporto molto importante. In realtà è stato rilasciato questo documento a Yokohama ed è un rapporto importante perché? Ma perché lancia un grido d'allarme su tutte le conseguenze negative di cui parliamo da anni del global warming, del riscaldamento dell'atmosfera, della possibilità che possa alzarsi il livello del mare, della possibilità che alcune zone oggi fertili possano trasformarsi in dei deserti e così via, così via. È un grido d'allarme sul piano globale, la soluzione deve essere locale, bisogna che tutti partecipino e ciascuno dei paesi partecipanti bisogna che sia ben al corrente di quelli che sono i rischi a cui va incontro. C'è anche una tabella di marcia, l'obiettivo è definire questo percorso di vari rapporti. Entro la fine dell'anno i leader mondiali si incontreranno a New York a settembre per cercare di ridar vita, restituire un po' di vita e un po' di energia alle trattative globali che sono andate in stallo a Copenaghen nel 2009. Dunque, dopo gli incontri di settembre a cavallo dell'Assemblea Generale, ci sarà poi un appuntamento nel dicembre dell'anno prossimo, del 2015, a Parigi, dove si dovrebbe finalizzare il colloquio globale per trovare un accordo su una riduzione generalizzata delle emissioni nocive. The one message that comes out very clearly is that the world has to adapt and the world has to mitigate. Rajendra Pauchari, presidente del panel intergovernativo sui cambiamenti climatici, commentando il rapporto, ha detto: il messaggio chiaro che arriva da questo rapporto è che il mondo si deve adattare. Prima lo si fa, minori saranno le probabilità di dover far fronte al devastante impatto che questi cambiamenti climatici potrebbero causare in varie aree del pianeta. Il presidente dell'IPCC, Rajendra Pauchari, ha sottolineato che uno dei messaggi chiave è che il mondo deve adottare misure per mitigare cambiamenti climatici che hanno già provocato danni incalcolabili, perché questo è il problema. Se qualcuno pensa di dover subire dei costi, un costo economico per l'introduzione dei controlli climatici, la verità è che ci sono settori dell'economia che questi danni li hanno già subiti, per esempio per la riduzione della disponibilità di acqua, per un calo drastico di raccolti agricoli, fino alla distruzione delle barriere coralline, al progressivo scioglimento dei ghiacciai dell'Artico, delle montagne. L'aumento della temperatura globale ha introdotto rischi chiave su molteplici fronti che mettono tra l'altro in pericolo popolazioni, la salute in molte parti del mondo. L'abbiamo visto, la possibilità che ci siano degli aumenti di catastrofi naturali, e questo rischio è aggravato dall'innalzamento del livello del mare, climi estremi, dalla siccità alle inondazioni che vanno a colpire i raccolti agricoli. Citando il rapporto, vi ho ricordato come ci sia il pericolo di un restringimento dell'Artico. Ecco, di queste vicende climatiche ormai si sta parlando in questi giorni a tutto campo, ci sarà un altro elemento di cui vi parlerò dopo. E, per esempio, il New York Times domenica ha pubblicato un articolo di Tom Friedman, che è uno dei più autorevoli giornalisti e scrittori del New York Times, che è andato proprio all'Artico con la USS New Mexico, che è un sottomarino. È un sottomarino nucleare che va a fare esplorazioni periodiche all'Artico, e Friedman racconta come questo sottomarino a un certo punto è sbucato in una zona dove non avrebbe potuto nel modo più assoluto sbucare, e quindi rompere una sottile pellicola di ghiaccio per poter arrivare al cielo aperto, proprio perché la calotta polare artica si sta riducendo e ci sono addirittura, pensate, dei pronostici secondo i quali da qui ai prossimi 20 anni sarà possibile navigare attraverso l'Artico, quindi navigare attraverso il Polo Nord, con la possibilità di aprire delle nuove rotte che erano impossibili, si doveva sempre circumnavigare il pianeta. Invece in questo modo si potrà semplicemente andare da nord a sud, passando per l'Artico. Ma dall'Artico facciamo un balzo all'Antartide. Antartide, Sea Shepherd, chi sono i Sea Shepherd? Beh, devo dire, mi hanno mandato una gran quantità di email in cui raccontano questa loro avventura per gli oceani subito a ridosso dell'Antartide alla caccia di baleniere giapponesi. Sono dei pastori del mare, è una fondazione che cerca di proteggere la balena. Per esempio, un dispaccio di febbraio mi dice: ieri abbiamo visto un'altra tragica giornata nella guerra di certi governi contro la natura, con l'uccisione di tre bellissimi pescecani tigrati. Uno di questi era una femmina di 2 metri e 2, troppo piccola per essere uccisa legalmente. Eppure le flotte giapponesi non si fermano. Rapporti di questo genere, vi ripeto, sono continui. Queste motovedette antibaleniere inseguono addirittura le baleniere giapponesi. Le baleniere giapponesi a loro volta ingaggiano una specie di lotta con queste imbarcazioni che vogliono proteggere le balene. Ebbene, ieri, sempre nel contesto delle Nazioni Unite, una giornata di straordinario successo per la protezione delle balene all'Antartide. The court concludes that the special permits granted by Japan. Il giudice Peter Tomka della Corte internazionale di giustizia dell'AIA ha annunciato che la Corte ha concluso che i permessi speciali garantiti al Giappone per l'uccisione delle balene in connessione al programma JARPA 2 non sono giustificati allo scopo di ricerca scientifica. Dunque è un veto al Giappone. Le navi giapponesi, le baleniere giapponesi, non potranno più dare la caccia alle balene nell'Antartide. È una clamorosa sconfitta del programma di caccia alle balene del governo giapponese, che diceva che in realtà queste missioni erano appunto a scopo scientifico. Bene, pensate, in nome della scienza, questo programma JARPA 2, che è attivo dal 2005, ha portato all'uccisione di circa 3.600 balene, con risultati scientifici, ha dichiarato Tomka, molto, molto limitati. Ci sarebbero migliaia di approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di ambiente, abbiamo parlato del pianeta Terra, e dunque non posso che dedicare la canzone del giorno a Michael Jackson con Earth Song. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.